Già dal 22 marzo alla biblioteca Sala Borsa qui a Bologna sarà possibile prendere in prestito, oltre ai classici libri, anche degli oggetti. Siamo qui per parlarne con Antonio Beraldi, operatore sociale e fondatore di Leila Bologna. Ciao Antonio e bentornato ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao Rachele, ciao a tutte e a tutti. Allora Antonio, avevamo già appunto parlato un po' di tempo fa che cos'è il progetto di Leila e la biblioteca degli oggetti, ma ti volevo chiedere cos'è questa novità appunto in biblioteca Sala Borsa e come è avvenuta questa collaborazione nuovissima. Sì, guarda, è per noi una gioia incredibile, perché quando siamo partiti 6 anni fa l'obiettivo era, la scommessa grande era proprio quella di riuscire a diventare un quasi servizio cittadino, no? La condivisione che entra a casa di tutti in maniera facile e che aiuta a riflettere su quella piccola, grande rivoluzione culturale che noi così in maniera un po' irriverente cerchiamo di portare avanti, cioè di ripensare all'idea di possesso. Grazie appunto a questa collaborazione che in realtà è partita tanti anni fa, cioè 4 anni fa con Sala Borsa, che si è andata via via sempre più consolidando, siamo arrivati alla firma di una convenzione, tale per cui diciamo che non siamo più ospiti di Sala Borsa, ma iniziamo ad intrecciare un percorso che ci vede proprio collaboratori. E saremo presenti tutti i martedì in Piazza Coperta dalle 16 alle 19 e chiunque abbia la tessera delle biblioteche riceverà gratuitamente anche la tessera di Leila e dovrà però, come sempre, scommettere sul progetto e, diciamo così, dovrà mettersi in gioco portando uno o più oggetti da condividere con gli altri soci. Questi alla fine dell'anno torneranno, se il socio vorrà, torneranno ad essere suoi, cioè potrà riprenderli, oppure darà nuovamente il contributo per il servizio e continuerà a mantenere i propri oggetti all'interno della biblioteca. In cambio potrà utilizzare tutto ciò di cui ha bisogno prenotandolo sul nostro sito internet o attraverso il link che adesso alberga anche sul sito di Sala Borsa. Mi ricordo la prima volta che avevamo parlato e ti avevo chiesto appunto che tipi di oggetti, no, si potevano prendere in prestito, e mi ricordo che uno dei più quotati che mi dicevi era il trapano. È ancora così? Si possono trovare ancora questa tipologia di oggetti anche appunto in Sala Borsa? Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo che il trapano è stato battuto clamorosamente dal videoproiettore. Questo sorpasso, però la cosa che registriamo è che le persone hanno davvero iniziato, oltre che ad utilizzare il servizio, anche a scommettere, diciamo così, nel servizio. Cosa significa? Che ad esempio se prima avevamo un trapano a vidatore, un videoproiettore, adesso tante persone iniziano a puntare in alto come qualità di oggetti da mettere in condivisione, quindi adesso abbiamo 2 videoproiettori, abbiamo 3 avvitatori e anche gli oggetti di utilizzo quotidiano iniziano ad essere oggetti di una qualità molto buona. Questo per noi è un indicatore importante, ovviamente, perché ci dà la misura di quanto le persone credano che effettivamente questo sia un qualcosa che ha a che fare con la cultura, oltre che con la possibilità di utilizzare oggetti, quindi di essere uno strumento. In giro per la città c'è anche un meraviglioso manifesto, no? Che sancisce un po' questa collaborazione tra voi e Sala Borsa, disegnato dalla bravissima Kalina Muova. Tra l'altro avete anche iniziato una sorta di contest su questo manifesto. Ma sì, siamo stracontenti, immaginati l'emozione, no? Noi siamo partiti veramente in 4 amici in un famoso garage, no? A pensare di poter fare qualcosa nel loro piccolo, e dopo 6 anni andiamo in giro per la città e ci sorprendiamo davanti a un cartellone pubblicitario perché, come dici tu, sancisce una collaborazione forte, un investimento grande. Con Kalina ci siamo trovati stra bene, incarna veramente, il suo stile incarna perfettamente il nostro stile e quello che si vede adesso è il primo di quattro cartelloni, di quattro illustrazioni, e non voglio svelare niente, ci stiamo lanciando davvero a livello cittadino. Bene Antonio, io ti ringrazio e insomma invito veramente chiunque abbia voglia di partecipare a questo bellissimo progetto e grazie ancora per avercene parlato, grazie Antonio. Grazie a voi e a presto, un abbraccione, ciao.